Dall'accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg, ciò che gli epigoni hanno fatto della teoria marxista, una anticritica. I libri hanno un loro destino. Mentre scrivevo la mia accumulazione del capitale, mi ossessionava continuamente il pensiero che tutti gli studiosi seguaci della dottrina marxiana avrebbero proclamato perfettamente ovvio quanto mi ero sforzata con tanta cura di chiarire e dimostrare. Nessuno, pensavo che avrebbero detto, ha mai pensato diversamente. La soluzione del problema è l'unica possibile. Invece non è andata così. Una serie di critici della stampa socialdemocratica hanno proclamato che l'impostazione del mio libro è sbagliata da cima a fondo, perché in questo campo non esiste problema da risolvere ed io sono rimasta pietosamente vittima di un malinteso. Non solo, ma la pubblicazione del mio libro è stata accompagnata da avvenimenti di cui il meno che si possa dire è che sono inusitati. La recensione apparsa sul Vorwärts del 16 febbraio 1913 ha, nel tono e nel contenuto, qualcosa di stupefacente anche per il lettore poco addentro nella materia, tanto più in quanto l'opera criticata ha un puro carattere teorico, non polemizza contro nessun marxista vivente e di una rigorosa aderenza ai fatti. Come se non bastasse, si svolge, nei riguardi di quanti hanno pubblicato recensioni favorevoli del mio libro, una specie di azione tutoria, condotta con particolare zelo dall'organo centrale del partito. Cosa strana e un tantino buffa, in questioni puramente teoriche, relative ad argomenti complessi e astrattamente scientifici, l'intera redazione di un giornale politico, di cui al massimo due membri hanno letto il libro, si lanciano in una sua condanna collegiale, negando a uomini come Franz Mehring e Karski ogni competenza in questioni economiche e promuovendo invece a competenti solo quelli che l'hanno demolito. Un simile destino non è mai stato riservato, che io sappia, a nessuna primizia della letteratura di partito dal giorno in cui questa esiste. Né si direbbe che sia tutto oro e perle ciò che da decenni esce dai torchi della socialdemocrazia. Il carattere eccezionale di questi fatti può soltanto dimostrare che il libro ha toccato passioni del tutto diverse dalla scienza pura. Comunque, per farsene una ragione, occorre conoscere almeno nelle grandi linee i termini della questione. Di che cosa tratta questo libro così aspramente combattuto? Per il gran pubblico la materia ne è resa ostica da un aspetto esteriore ed accessorio, il largo uso che vi si fa di formule matematiche. Queste formule costituiscono anzi il punto centrale delle critiche rivolte al libro e alcuni dei critici più severi si sono affannati per darmi una lezione a inventarne di ancora più complicate e originali. Vedremo più oltre come questa predilezione dei competenti per gli schemi non sia affatto casuale, ma si ricolleghi direttamente al loro modo di impostare le questioni. Comunque, il problema dell'accumulazione è in se stesso un problema puramente economico e sociale. Non ha a che vedere con formule matematiche. Può essere impostato e compreso anche senza formule matematiche. Se Marx, nella sezione del suo Capitale, che tratta della riproduzione del capitale sociale e totale, ha costruito schemi matematici, allo stesso modo che 100 anni prima li aveva costruiti Quesnay, padre della scuola fisiocratica e fondatore dell'economia politica in quanto scienza esatta, ciò doveva servirgli a semplificare e chiarire l'argomentazione, a illustrazione del fatto che i fenomeni della vita economica nella società borghese costituiscono, ad onta dell'intreccio confuso delle sue manifestazioni superficiali e dell'apparente dominio dell'arbitrio individuale, rapporti regolati da leggi altrettanto ferree quanto quelle che reggono i fenomeni fisici. E poiché la mia indagine sull'accumulazione del capitale si fondava sulla rappresentazione schematica datane da Marx per sottoporla a critica, poiché Marx non è andato in merito al problema dell'accumulazione, oltre la fissazione di alcuni schemi e un principio di loro analisi, e proprio questo è stato il punto d'innesto della mia critica, era naturale che io dovessi ricorrere agli schemi di Marx, anzitutto perché non potevo arbitrariamente escluderli dall'esposizione marxiana, e in secondo luogo perché si trattava per me appunto di dimostrarne l'insufficienza. Cerchiamo dunque di cogliere il problema nella sua forma più semplice e senza formule matematiche. Il modo di produzione capitalistico è dominato dall'interesse al profitto. Per ogni capitalista la produzione ha senso e scopo solo se gli permette, anno per anno, di riempirsi le tasche di un utile netto, del profitto, che rimane in eccedenza a tutti i suoi investimenti di capitale. Ma la legge fondamentale della produzione capitalistica, che la distingue da ogni altra forma economica basata sullo sfruttamento, è non soltanto il profitto in moneta sonante, ma un profitto sempre crescente. A questo scopo, il capitalista, anche qui in modo nettamente diverso da qualunque altro tipo storico di sfruttatore, destina il frutto del suo sfruttamento non solo né in prima linea al lusso personale, ma in misura crescente allo sviluppo dello sfruttamento stesso. La maggior parte del profitto ottenuto viene dunque aggiunto al capitale e fatto servire all'allargamento della produzione. In tal modo il capitale, secondo l'espressione di Marx, si accumula. E come premessa e a un tempo conseguenza dell'accumulazione, la produzione capitalistica si estende sempre più. Per raggiungere questo effetto non basta tuttavia la buona volontà dei capitalisti. Il processo è legato a rapporti sociali obiettivi che si possono sintetizzare nel modo che segue. Anzitutto, per rendere possibile lo sfruttamento è necessaria la presenza di una sufficiente massa di forza lavoro. A questo provvede, una volta storicamente avviato e consolidatosi il modo di produzione capitalistico, lo stesso meccanismo di questa produzione. Primo, mettendo bene o male i salariati in condizione di sostentarsi mediante il salario ricevuto ai fini dell'ulteriore sfruttamento e di riprodursi per naturale incremento, ma non più di tanto. Secondo, costituendo, mediante la continua proletarizzazione dei ceti medi, e la concorrenza fra macchine e lavoratore nella grande industria, un esercito di riserva sempre disponibile, di proletariato industriale. Soddisfatta questa condizione, cioè assicurata una materia di sfruttamento sempre disponibile sotto forma di proletari salariati, e regolato mediante lo stesso sistema salariale il meccanismo dello sfruttamento, una nuova condizione fondamentale dell'accumulazione del capitale si presenta. La possibilità di vendere in un raggio sempre più largo le merci prodotte dai salariati, per riottenere in denaro sia le somme spese dai capitalisti sia il plusvalore estorto dalla forza lavoro. La prima condizione dell'accumulazione è che il capitalista sia riuscito a vendere le sue merci e a trasformare in capitale la maggior parte del denaro così ricevuto, scrive Marx. Affinché l'accumulazione come processo continuo abbia luogo, è dunque indispensabile al capitale la possibilità sempre crescente di smerciare i suoi prodotti. La prima condizione dello sfruttamento, come si è visto, se la crea lo stesso capitale. Il primo libro del Capitale analizza accuratamente e descrive questo processo. Ma e la realizzabilità dei risultati dello sfruttamento, le possibilità di smercio, da che cosa dipendono? È nel potere del capitale o nell'essenza del meccanismo della sua produzione di allargare lo smercio conformemente alle sue esigenze, allo stesso modo che adatta alle sue esigenze il numero dei lavoratori salariati? La risposta è negativa. Si manifesta qui la dipendenza del capitale dalle condizioni sociali. La produzione capitalistica, pur con le sue fondamentali diversità dalle altre forme storiche di produzione, ha questo in comune con esse. Che sebbene il suo scopo determinante sia soggettivamente il puro interesse al profitto, essa deve oggettivamente soddisfare i bisogni materiali della società e può raggiungere quello scopo soggettivo solo se e nella misura in cui risponde a questo compito obiettivo. Le merci capitalistiche possono essere vendute solo se e in quanto soddisfino i bisogni della società. Solo a questa condizione il profitto in esse incorporato può trasformarsi in denaro. Il continuo allargamento della produzione capitalistica, cioè la continua accumulazione, è perciò legato ad un altrettanto continuo allargamento del fabbisogno sociale. Ma che cos'è il fabbisogno sociale? È qualcosa di esattamente definibile e misurabile o rimaniamo anche qui nel campo dei concetti vaghi e indefiniti? In realtà, la cosa, vista così come si presenta tutta prima alla superficie della vita economica, nella sua prassi quotidiana, cioè dall'angolo visuale del capitalista singolo, appare incomprensibile. Un capitalista produce e vende macchine. Suoi acquirenti sono altri capitalisti che comprano le sue macchine per produrre a loro volta altre merci. Il primo può dunque tanto più collocare le sue merci, quanto più i secondi allargano la loro produzione. Può tanto più rapidamente accumulare, quanto più altri accumulano nei loro rami di produzione. Qui, dunque, il fabbisogno sociale, cui il nostro capitalista è legato, sarebbe il fabbisogno di altri capitalisti. Il presupposto dell'allargamento della sua produzione, quello della loro. Un altro produce e vende mezzi di sussistenza per i lavoratori, può tanto più venderli e perciò accumulare capitale, quanti più lavoratori sono impiegati da altri capitalisti e da lui stesso, o in altre parole, quanto più altri capitalisti producono e accumulano. Da che cosa dipende che gli altri possano allargare la loro attività? Ancora una volta si direbbe dal fatto che questi capitalisti, per esempio i produttori di macchine o di mezzi di sussistenza, comprino in misura crescente le loro merci. Il fabbisogno sociale, da cui l'accumulazione del capitale dipende, sembra dunque essere a primo sguardo l'accumulazione medesima del capitale. Quanto più il capitale accumula, tanto più accumula. E a questa vuota tautologia o a questo circolo vizioso che una più attenta analisi sembra portarci. Quanto più il capitale accumula, tanto più accumula. Ma dov'è il punto di partenza, l'inizio del moto? È chiaro che giriamo su noi stessi. Il problema ci sfugge continuamente di mano. Così è, infatti, ma solo finché ci limitiamo a studiarlo dal punto di vista della superficie del mercato, cioè del capitalista singolo, piattaforma prediletta dell'economia volgare. Ma la questione prende subito forme e contorni precisi se esaminiamo la produzione capitalistica come un tutto, dal punto di vista del capitale totale, che è anche, in definitiva, l'unico giusto e determinante. È appunto questo che Marx svolge sistematicamente solo nel secondo libro del Capitale, ma che ha posto a base dell'intera sua teoria. L'esistenza privata e sovrana del capitale singolo è, in realtà, solo la forma esteriore, la superficie della vita economica. Solo l'economista volgare può considerarla essenza delle cose e fonte unica della loro comprensione. Al di sotto di questa superficie, e pur attraverso tutte le contraddizioni della concorrenza, rimane il fatto che i capitali singoli costituiscono socialmente un tutto, che la loro esistenza e il loro moto sono regolati da leggi sociali comuni che solo per effetto della mancanza di un piano e dell'anarchia del sistema vigente si impongono attraverso continue deviazioni dietro le spalle dei capitalisti singoli e contro la loro coscienza. Se consideriamo la produzione capitalistica come un tutto, anche il fabbisogno sociale diventa una grandezza afferrabile, scomponibile nei suoi elementi. Immaginiamo che tutte le merci annualmente prodotte nella società capitalistica vengano riunite in un solo enorme mucchio per trovare impiego come massa nella società. E ci accorgeremo subito che questa poltiglia di merci si suddivide naturalmente in alcune grandi categorie di diversa natura e destinazione. In ogni forma sociale e in ogni tempo, la produzione deve in un modo o nell'altro procedere. Primo, a nutrire, vestire e soddisfare i bisogni molteplici della società mediante oggetti materiali, cioè, in altre parole, a produrre mezzi di sussistenza e, in senso lato, per la popolazione di ogni condizione ed età. Secondo, a produrre mezzi di produzione a sostituzione dei consumati, materie prime, attrezzi e fabbricati, per rendere possibile la sopravvivenza della società e il suo ulteriore lavoro. Senza la soddisfazione di questi due elementari bisogni di ogni società umana, lo sviluppo della civiltà, il progresso, sarebbero impossibili. Anche la produzione capitalistica deve, pur con tutta la sua anarchia e indipendentemente dall'interesse per il profitto, tenere esatto conto di queste elementari esigenze. Di conseguenza, nel magazzino generale di merci capitalistiche da noi immaginato, si troveranno anzitutto un gruppo di merci a sostituzione dei mezzi di produzione consumati nell'ultimo anno, le nuove materie prime, le macchine, i fabbricati, eccetera, ciò che Marx chiama capitale costante. Che che i diversi capitalisti producono gli uni per gli altri nelle loro aziende e che debbono reciprocamente scambiarsi perché in tutte le aziende la produzione possa essere ripresa sulla precedente scala. Poiché, secondo la nostra ipotesi, sono le aziende capitalistiche a fornire tutti i mezzi di produzione richiesti per il processo lavorativo della società, lo scambio delle merci corrispondenti sul mercato sarà anche, per così dire, una pura faccenda interna, domestica, dei capitalisti nei loro reciproci rapporti. Il denaro necessario per mediare in tutti i suoi aspetti lo scambio delle merci esce naturalmente dalle tasche della medesima classe capitalistica, dovendo ogni capitalista disporre a priori del capitale denaro necessario per il proprio esercizio e, compiuto lo scambio, ritorna altrettanto naturalmente dal mercato nelle sue tasche. Poiché fino a questo punto non consideriamo che il rinnovo dei mezzi di produzione sulla scala precedente, la stessa somma di denaro basta anche, anno per anno, a mediare periodicamente l'approvvigionamento reciproco dei capitalisti in mezzi di produzione e ritornare sempre per un periodo di riposo nelle loro tasche. Una seconda grande sezione della massa delle merci capitalistiche deve, come in ogni società, contenere i mezzi di sussistenza della popolazione. Ma come si articola nella forma sociale capitalistica la popolazione e come ottiene i mezzi per vivere? Due forme fondamentali caratterizzano il modo di produzione capitalistico. Primo, lo scambio generale di merci, il che significa in questo caso che nessuno riceve il più piccolo mezzo di sussistenza dalla massa sociale delle merci se non possiede per il suo acquisto del denaro. Secondo, il sistema salariale, cioè un rapporto per cui la gran massa della popolazione lavoratrice ottiene i mezzi di acquisto delle merci solo mediante scambio della forza lavoro col capitale e la classe possidente ottiene i suoi mezzi di sussistenza solo mediante lo sfruttamento di questo particolare rapporto. Perciò la produzione capitalistica presuppone di per sé due grandi classi, capitalisti e lavoratori, in posizione radicalmente diversa in rapporto al rifornimento in beni di consumo. I lavoratori, per quanto indifferente sia al capitalista singolo il loro destino personale, devono essere almeno nutriti nei limiti in cui la forza lavoro è utilizzabile ai fini del capitale, per rimanere disponibili a un ulteriore sfruttamento. Sulla massa complessiva delle merci da loro prodotte, la classe capitalistica destina loro ogni anno una parte di mezzi di sussistenza nella precisa misura della loro possibilità di impiego nella produzione. Per comprare queste merci, i lavoratori ricevono dai loro imprenditori salari in forma monetaria. Ne segue che, attraverso lo scambio, la classe lavoratrice riceve ogni anno dalla classe capitalistica, vendendole la propria forza lavoro, una certa somma di denaro con cui ritira dalla massa sociale delle merci, proprietà degli stessi capitalisti, la parte di mezzi di sussistenza riservatale a seconda del suo sviluppo civile e del livello raggiunto dalla lotta di classe. Il denaro che media questo secondo grande scambio nella società esce dunque anch'esso dalle tasche dei capitalisti. Ogni capitalista deve, per l'esercizio della sua azienda, anticipare quello che Marx chiama capitale variabile, cioè il capitale denaro necessario per l'acquisto della forza lavoro. Ma questo denaro, appena i lavoratori hanno acquistato i loro mezzi di sussistenza, cosa che ogni lavoratore deve fare per il sostentamento suo e della sua famiglia, riaffluisce fino all'ultimo centesimo nelle tasche dei capitalisti, in quanto classe, essendo ancora gli imprenditori capitalisti a vendere come merci ai lavoratori i mezzi di consumo. Veniamo ora al consumo dei capitalisti medesimi. I mezzi di sussistenza della classe capitalistica le appartengono già come massa di merci anteriormente allo scambio. E ciò in forza del particolare rapporto capitalistico per cui tutte le merci, con la sola eccezione della merce forza lavoro, nascono come proprietà del capitale. E poiché quei mezzi di consumo di qualità superiore nascono proprio perché merci come proprietà di molti capitalisti privati disseminati, come proprietà privata rispettiva di ogni capitalista singolo, ne segue che la classe capitalistica giunge a godere della massa di beni di consumo ad essa pertinenti, esattamente come del capitale costante, mediante uno scambio reciproco fra capitalisti. Anche questo scambio sociale deve essere mediato dal denaro e la quantità di denaro necessaria a questo fine deve essere gettata a più riprese in circolazione dai capitalisti, trattandosi, come per il rinnovo del capitale costante, di una faccenda interna domestica della classe degli imprenditori. E come prima, anche questa somma ritorna regolarmente, effettuato lo scambio, nelle tasche della classe da cui era uscita. Che ogni anno sia effettivamente prodotta la necessaria quantità di mezzi di consumo con gli articoli di lusso necessari per i capitalisti è un fatto a cui provvede lo stesso meccanismo dello sfruttamento capitalistico che regola il rapporto salariale. Se i lavoratori producessero solo quel tanto di mezzi di sussistenza che occorre per mantenerli, la loro occupazione sarebbe, dal punto di vista del capitale, un assurdo. Essa comincia ad acquistare un senso solo se il lavoratore provvede, oltre al proprio mantenimento, che corrisponde al proprio salario, anche al mantenimento di chi gli dà il pane, cioè se produce, secondo l'espressione di Marx, del plusvalore per i capitalisti. E questo plusvalore deve servire fra l'altro a provvedere la classe capitalistica, come ogni classe sfruttatrice nei precedenti periodi storici, del necessario sostentamento e lusso. Ai capitalisti rimane la particolare cura di provvedere, con lo scambio reciproco delle merci corrispondenti e la preparazione dei mezzi monetari necessari, all'esistenza piena di spine e di rinunce della propria classe e alla sua naturale riproduzione. Ci saremmo così disfatti, per cominciare, di due grandi gruppi della poltiglia sociale di merci, i mezzi di produzione per il rinnovo del processo lavorativo e i mezzi di sussistenza per il mantenimento della popolazione, cioè della classe lavoratrice da una parte e della classe capitalistica dall'altra. A tutta prima può sembrare che, con tutto quanto precede, noi abbiamo disegnato un quadro puramente fantastico. Come fa un capitalista a sapere oggi, e qual è il capitalista che se ne preoccupa, che cosa e quanto sia necessario alla sostituzione del capitale totale consumato e al mantenimento dell'intera classe dei lavoratori o dei capitalisti? Ogni imprenditore produce alla cieca, in concorrenza con altri, e vede solo ciò che gli passa davanti al naso. Se non che, pur nell'intrico della concorrenza, pur nell'anarchia generale, esistono evidentemente leggi invisibili ma rigorose, altrimenti la società capitalistica sarebbe da tempo in frantumi. Tutto il senso dell'economia in quanto scienza, e in particolare lo scopo cosciente della dottrina economica marxiana, sta nella determinazione delle leggi nascoste che condizionano l'ordine e l'unità del complesso sociale perentro la confusione delle economie private. Si tratta ora di scoprire queste invisibili norme obiettive dell'accumulazione del capitale, accumulazione del capitale mediante allargamento della produzione. Dal fatto che queste leggi da noi formulate non sono, per il modo di agire cosciente dei capitalisti singoli, normative, e che non esiste un organo generale della società incaricato di stabilire coscientemente e mettere in opera queste leggi, segue soltanto che l'attuale produzione assolve il proprio compito al modo dei sonnambuli, attraverso un eccesso o un difetto, perentro continue oscillazioni dei prezzi e crisi. Ma queste oscillazioni dei prezzi e queste crisi hanno per la società, in ultima analisi, appunto il senso di ricondurre la caotica produzione privata, di ora in ora e di periodo in periodo, sui binari dei grandi rapporti generali, senza i quali essa società si dissolverebbe. Quando perciò si cerca, con Marx, di tracciare a grandi linee il rapporto fra produzione totale capitalistica e fabbisogno sociale, si prescinde dai metodi specifici, oscillazioni dei prezzi e crisi, mediante i quali il capitalismo lo realizza e si affronta la questione delle radici. Non ci si può tuttavia accontentare di questa prima e sommaria suddivisione della massa sociale delle merci. Se lo sfruttamento dei lavoratori servisse unicamente a permettere agli sfruttatori una vita di sfarzo, avremmo una specie di società schiavistica rimodernata o un regime feudale medievale, non il dominio moderno del capitale. Lo scopo e la missione dello sfruttamento capitalistico è il profitto in forma monetaria, l'accumulazione di capitale e denaro. Lo specifico senso storico della produzione comincia dunque là dove lo sfruttamento varca quei confini. Il plusvalore deve non solo bastare a permettere alla classe capitalistica un'esistenza conforme al suo grado, ma contenere in più una parte destinata all'accumulazione. Questo scopo specifico ha un peso così schiacciante che i lavoratori sono impiegati, e perciò anche messi in condizione di procurarsi mezzi di sussistenza, solo nella misura in cui producono questo profitto accumulabile, ed esiste la reale prospettiva di accumularlo in forma monetaria. Dunque, nel magazzino di merci da noi immaginato, dovremmo trovare anche un terzo gruppo di merci non destinate né al rinnovo dei mezzi di produzione consumati, né al mantenimento degli operai o della classe capitalistica. Merci contenenti la percentuale inestimabile di plusvalore estorto ai lavoratori, che rappresenta il vero obiettivo del capitale, il profitto destinato alla capitalizzazione, alla accumulazione. Che specie di merci sono queste e chi nella società ne ha bisogno, cioè chi le acquista dai capitalisti per aiutarli a trasformare in denaro la parte principale del profitto? Siamo così giunti al nocciolo del problema dell'accumulazione e dobbiamo esaminare i diversi tentativi di risolverlo. Possono essere i lavoratori ad acquistare l'ultima aliquota di merci del magazzino sociale? Ma i lavoratori non dispongono di mezzi di acquisto oltre i salari loro passati dagli imprenditori e prelevano, nella misura di questi salari, solo la parte ad essi strettamente destinata del prodotto sociale totale. Al di sopra di questo limite non possono essere acquirenti, neppure per un centesimo di merci capitalistiche, anche se non tutti i loro bisogni vitali sono stati soddisfatti. Inoltre, lo sforzo e l'interesse della classe capitalistica tendono a calcolare al minimo, non al massimo, la parte del prodotto sociale totale consumata dai lavoratori e i mezzi di acquisto a tal fine necessari. Infatti, dal punto di vista dei capitalisti come classe, è molto importante tener sempre presente questo punto di vista nella sua distinzione dagli orizzonti limitati del capitalista singolo. I lavoratori non sono per essa acquirenti di merci, clienti come altri, ma pura forza lavoro, il cui mantenimento con una parte del loro prodotto è solo una triste necessità da ridurre al minimo socialmente consentito nelle circostanze specifiche del momento. Possono d'altra parte essere gli stessi capitalisti gli acquirenti di quell'ultima porzione della massa sociale delle merci, allargando il proprio consumo personale? La cosa sarebbe forse possibile, sebbene anche senza questo espediente, al lusso della classe dominante e alle sue follie si provveda già con larghezza. Ma il fatto è che se i capitalisti divorano senza residui l'intero plusvalore estorto ai lavoratori, l'accumulazione si riduce a zero. Avremmo allora, dal punto di vista del capitale, una fantastica ricaduta nell'economia schiavista o nel feudalesimo. L'inverso è bensì pensabile. E a volte lo si pratica con entusiasmo. Accumulazione capitalistica con forme di sfruttamento tipiche dello schiavismo, della servitù della gleba, si sono potute osservare fino al 1860-70 negli Stati Uniti e ancora oggi in Romania e in diverse colonie transoceaniche. Ma il caso opposto, una forma moderna di sfruttamento e perciò un sistema salariale libero con successivo sperpero del plusvalore a totale scapito dell'accumulazione. Questo peccato mortale contro lo spirito santo del capitale è inconcepibile. Anche qui, si badi bene, il punto di vista del capitale totale si distingue in modo decisivo da quello dell'imprenditore singolo. A quest'ultimo, per esempio, anche il lusso delle grandi baronie appare come auspicato allargamento dello smercio, come un'occasione di prim'ordine per accumulare. Ma all'insieme dei capitalisti come classe, il consumo dell'intero plusvalore in lusso è pura follia, suicidio economico, perché distrugge l'accumulazione alle radici. Chi dunque può essere l'acquirente, il consumatore della parte di merci socialmente prodotte, la cui vendita permette essa sola l'accumulazione? Una cosa è finora chiara: non possono esserlo né lavoratori né capitalisti. Ma non vi sono nella società un insieme variopinto di strati sociali, impiegati, ufficiali dell'esercito, preti, professori, artisti, non calcolabili né come lavoratori né come imprenditori? Non devono anche queste categorie della popolazione soddisfare i propri bisogni di consumo e non possono perciò essere i tanto ricercati acquirenti dell'eccedenza di merci? La risposta è ancora una volta per il capitalista singolo, senza dubbio, ma non così se consideriamo tutti gli imprenditori in quanto classe, il capitale sociale totale. Nella società capitalistica tutti gli strati e le professioni indicate non sono economicamente che appendici della classe capitalistica. Se ci chiediamo da dove gli impiegati, ufficiali, preti, artisti, eccetera, derivino i loro mezzi di acquisto, constatiamo che li ricevono in parte dai capitalisti, in parte attraverso il sistema delle imposte indirette dai lavoratori. Ne risulta che, dal punto di vista economico, questi ceti non possono rappresentare per il capitale totale una classe indipendente di consumatori. Essi non hanno una sorgente autonoma di potere di acquisto, ma, come condivoratori dei capitalisti e dei salariati, sono già compresi nel consumo di entrambi. Impossibile, dunque, fino ad ora, trovare acquirenti. Impossibile mettere le mani su quell'uno che, acquistando l'ultima aliquota di merci, consenta l'accumulazione. Ma alla lunga la difficoltà non sembra difficile da risolvere. Forse siamo come quel tal cavaliere che andava disperatamente in cerca del cavallo cui era in sella. Forse i capitalisti sono reciproci acquirenti anche di quel residuo di merci, non per scialarle, ma per impiegarle ad allargare la produzione, ad accumulare. Che cos'è infatti accumulazione se non allargamento della produzione? Ora, per rispondere a questo scopo, quelle merci devono consistere non in oggetti di lusso per il consumo privato dei capitalisti, ma in mezzi di produzione di ogni genere, nuovo capitale costante, e in mezzi di sussistenza per lavoratori. Ottimamente, ma è una soluzione che si limita a spostare la difficoltà da un piano a un altro, giacché, una volta ammesso che l'accumulazione si sia compiuta e la produzione allargata getti sul mercato l'anno successivo una massa di merci molto maggiore che in questo, risorge la domanda: dove troveremo allora gli acquirenti di questa massa cresciuta di merci? Se si risponde: beh, questa massa cresciuta di merci sarà nel prossimo anno nuovamente scambiata fra loro dai capitalisti e impiegata da tutti ad allargare ulteriormente la produzione, e così via di anno in anno, eccoci davanti a una giostra che gira su se stessa nel vuoto. Non si ha, allora, accumulazione capitalistica, cioè accumulazione di capitale denaro, ma l'inverso, produzione di merci per amore della produzione, cioè, dal punto di vista del capitale, un assurdo completo. Se i capitalisti come classe sono essi stessi gli acquirenti della loro intera massa di merci, prescindendo dalla parte che devono destinare al mantenimento della classe lavoratrice, se si vendono reciprocamente le merci col proprio denaro e così monetizzano il plusvalore in esse contenuto, l'accumulazione del profitto da parte dei capitalisti diventa impossibile. Se questa deve verificarsi, bisognerà dunque trovare altri acquirenti per il gruppo di merci in cui il plusvalore destinato all'accumulazione si annida, acquirenti che traggano i loro mezzi di acquisto da fonti autonome, invece di riceverli dalle tasche dei capitalisti come avviene per i lavoratori e per i collaboratori del capitale. Impiegati statali, militari, clero, professioni liberali. Acquirenti i quali vengano in possesso dei propri mezzi di acquisto sulla base di uno scambio e perciò di una produzione di merci che si svolgono al di fuori della produzione mercantile capitalistica. Produttori i cui mezzi di produzione non possano essere considerati come capitale e che non appartengano alle due categorie dei capitalisti e dei lavoratori, ma abbiano bisogno, in un modo o nell'altro, di merci capitalistiche. Ma dove si trovano questi acquirenti? All'infuori dei capitalisti col loro seguito di parassiti non vi sono, nella società moderna, altre classi o ceti. Siamo così giunti al nodo della questione. Nel secondo, come anche nel primo libro del Capitale, Marx parte dal presupposto che la produzione capitalistica sia l'unica ed esclusiva forma di produzione. Dice nel primo libro: astraiamo qui dal commercio estero, mediante il quale una nazione può convertire articoli di lusso in mezzi di produzione o di sussistenza, per cogliere l'oggetto della ricerca nella sua purezza, libero da circostanze perturbanti e accessorie. Dobbiamo considerare tutto il mondo commerciale come una nazione e presupporre che la produzione capitalistica si sia imposta dovunque e abbia conquistato tutti i rami dell'industria. E nel secondo scrive: al di fuori di questa classe capitalistica non esiste, secondo la nostra ipotesi, dominio generale ed esclusivo della produzione capitalistica, altra classe che la lavoratrice. In queste condizioni è chiaro che nella società attuale non esistono che i capitalisti con la loro appendice e i salariati. Impossibile trovare altri ceti, altri produttori e consumatori di merci, e l'accumulazione capitalistica, come ho cercato di rappresentarla, si trova posta davanti al problema insolubile di cui parlavamo. Gira e rigira, finché si rimane fissi all'ipotesi che nella società non esistano strati al di fuori di capitalisti e lavoratori, riesce impossibile ai capitalisti come classe di smaltire le loro merci eccedenti per trasformare il plusvalore in denaro e così accumulare capitale. Ma l'ipotesi marxiana è solo un'astrazione teorica destinata a semplificare e facilitare l'indagine. In realtà, la produzione capitalistica, come tutti sanno e come lo stesso Marx mette in rilievo nel Capitale, non è affatto l'unica, né il suo dominio è esclusivo e totale. In realtà, in tutti i paesi capitalistici, anche in quelli a grande industria altamente sviluppata, esistono, accanto alle imprese capitalistiche, nell'artigianato e nell'agricoltura, numerose aziende artigiane e contadine fondate sulla produzione semplice delle merci. In realtà, accanto ai vecchi paesi capitalistici, esistono anche in Europa paesi in cui la produzione contadina e artigiana è tuttora prevalente, come la Russia, i Balcani, i paesi scandinavi, la Spagna. E infine, accanto all'Europa e all'America del Nord capitalistiche, esistono giganteschi continenti nei quali la produzione capitalistica ha appena cominciato a mettere radici in piccoli punti sparsi, mentre per il resto i loro popoli presentano tutte le forme economiche possibili, dalla comunistica primitiva alla feudale, contadina, artigiana. Tutte queste forme sociali e produttive vivono e sono vissute non soltanto in pacifica contiguità spaziale col capitalismo, ma fin dall'inizio dell'era capitalistica si è sviluppato fra loro e il capitale europeo un attivo e particolare ricambio organico. La produzione capitalistica, come pura produzione di massa, conta su acquirenti di origine contadina e artigiana dei vecchi paesi e su consumatori di tutti gli altri, e a sua volta non può fare tecnicamente a meno di prodotti di questi strati e paesi, siano essi mezzi di produzione o di consumo. Perciò, fin dall'inizio si svolse fra la produzione capitalistica e il suo ambiente non capitalistico un rapporto di scambio in cui il capitale trovò la possibilità sia di realizzare il proprio plusvalore ai fini di un'ulteriore capitalizzazione in denaro, sia di rifornirsi di tutte le merci necessarie per l'allargamento della sua produzione, sia, infine, di assorbire nuove forze lavoro proletarizzate mediante la decomposizione violenta di forme di produzione non capitalistiche. Ma questo non è che il nudo contenuto economico del rapporto. Il suo manifestarsi concreto nella realtà costituisce il processo storico dello sviluppo del capitalismo sull'arena mondiale in tutto il suo variopinto e mobile atteggiarsi.